Salvadanaio. Buongiorno da Roberta Pellegatta, bentrovati a un nuovo appuntamento con Salvadanaio, oggi eccezionalmente in mia compagnia. Un saluto anche da Marco Lombardo e Gare Romani in redazione, da Fabio Cantadori che sta curando la regia di questo programma che oggi si rivolge a un pubblico potenziale di circa 1,5 milioni di persone. Tante sono in Italia le colf e le badanti, figure preziosissime in un paese come il nostro in cui il sistema di welfare non è avanzato come quello di altri paesi. In Italia una famiglia su 10 usufruisce del servizio di queste persone a cui spesso vengono affidati gli anziani e le persone non autosufficienti. Oggi dunque parliamo degli anziani e diciamo così dei loro angeli custodi alla luce di due progetti che sono appena partiti. Il primo si chiama Badanti informate, famiglie protette, è un'iniziativa di Adiconsum e del Movimento Difesa del Cittadino che mira a dare a colf e badanti una bussola, a informarli sui loro diritti ma anche sulle tante problematiche legate alla quotidianità. Parleremo di questo nuovo progetto con Livia Zollo, responsabile progetti del Movimento Difesa del Cittadino, che in linea con noi, ben trovata. Salve, buongiorno a tutti. Ma c'è un altro progetto che vogliamo oggi pubblicizzare, in questo caso organizzato dal Movimento Consumatori, che invece si rivolge alle persone anziane, alle quali intende dare tutte le informazioni sui servizi e le agevolazioni che li riguardano, che spesso sono poco conosciuti. Un progetto che si chiama Linea d'Argento, ce lo presenterà Francesca Lulli del Movimento dei Consumatori. Buongiorno anche a lei. Sì, buongiorno, piacere di essere in linea. E poi per parlare del rapporto che si instaura tra le famiglie italiane e le colf e i badanti straniere, con noi Roberto Violi, coordinatore del servizio colf del CAF CISL, che ci aiuterà ad affrontare le questioni che vanno dalla regolarizzazione all'impostazione di un rapporto di lavoro corretto. Anche lui è in linea con Radio 24, buongiorno. Buongiorno a tutti. Naturalmente aspettiamo le vostre domande, i vostri interventi al numero verde 800 24 0024 oppure via sms a questo numero 349 238 6666. Prima di partire un veloce sguardo alla borsa con gli aggiornamenti. Sono sempre positivi i listini europei, anche se Francoforte si sta anzi in questo momento è andato in negativo meno 0,04%, segno più per Parigi invece più 0,38%, per Londra più 0,83%. A Milano FTSE All Share più 0,42%, il FTSE MIB guadagna lo 0,26% in questo istante. Tra i titoli di Piazza Affari il migliore sempre Saipem più 2,67%, poi Luxottica più 1,86%, Autogrill più 1,65%, peggior performance per Geox che perde il 2,15%, seguito da CIR meno 1,85%, da ST Macro Electronics meno 1,51%. I cambi in questo istante: euro su dollaro a 1,31,88. Questo per quanto riguarda i mercati. Ora entriamo nel vivo della nostra puntata dedicata appunto agli anziani, alle colf e badanti straniere che spesso si occupano di loro. In Italia quasi 2,5 milioni di famiglie, una su 10, ricorrono ai servizi di collaboratrici e collaboratori domestici. In un paese in cui un abitante su 5 supera i 65 anni e il 5,8% della popolazione è formata da over 80, queste figure professionali non possono che diventare sempre più importanti e richieste. Al tempo stesso, però, non è altrettanto semplice la regolarizzazione dei contratti di lavoro. Colloqui, selezione, formalizzazione del rapporto, assumere una figura che si occupi della gestione della casa e della cura dell'anziano non è semplice come sembra. È importante dunque seguire determinate procedure e adempiere a tutti gli obblighi in qualità di datore di lavoro. Conoscere quelle che sono le retribuzioni del settore, le qualifiche, ma anche le possibili sanzioni in cui si potrebbe incappare in caso di disattenzione. Uno dei principali scogli che hanno dovuto superare numerosi datori è stato quello della regolarizzazione in caso di dipendenti stranieri, che rappresentano circa il 70% della categoria. Tra le domande di regolarizzazione presentate in occasione dell'ultima sanatoria, avviata nel luglio 2009, ad esempio, sono state circa 27.000 le pratiche rigettate per irregolarità dei requisiti di reddito dei datori di lavoro e a volte per l'interpretazione restrittiva adottata in alcune città. Ma la regolarizzazione non è il solo ostacolo nella gestione del rapporto di lavoro. Per venire incontro a questa e ad altre esigenze, si stanno tuttavia sviluppando numerosi servizi e strumenti utili per orientarsi nella gestione dei problemi di vita quotidiana. E allora, come annunciato, uno di questi servizi si rivolge proprio alle colfe badanti straniere, si chiama Badanti Informate Famiglie Protette, ha curato il progetto insieme ad Adiconsum Livia Giollo del Movimento Difesa del Cittadino, che è con noi. Allora, Livia Giollo, colfe badanti sono nella gran parte straniere, arrivano da paesi molto lontani, profondamente diversi a volte dal nostro, e questo rende difficile per loro orientarsi nel nostro sistema di regole, così? Assolutamente sì, infatti questo progetto ha un duplice impegno, non solo favorire l'integrazione di queste persone, ma anche aiutarli, perché consumatori che possono avere dei problemi con delle bollette, possono avere problemi ad orientarsi nell'attivazione di un conto corrente, problemi che abbiamo tutti, però loro magari hanno la problematica della lingua o comunque conoscono magari non abbastanza il nostro paese da appunto sapere come orientarsi, e noi siamo qui per questo, appunto tramite i servizi che abbiamo attivato attraverso questo progetto vogliamo proprio aiutare questo tipo di target e di riflesso anche quegli anziani che assistono, migliorando proprio la qualità del loro servizio senza far perdere tempo a queste persone che sono molto importanti oggi per il nostro paese, perché vanno così a riempire quelle carenze del servizio pubblico socio assistenziale italiano. Certo, e per questo voi avete instaurato un numero verde a cui i colfe badanti possono chiamare. Esattamente, un numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, che è 800, colgo questa occasione, 800 864 754, ma oltretutto anche il servizio email badanti-informate@adiconsum.it e badanti-informate@mdc.it, ma non solo, perché abbiamo pensato di attivare degli sportelli in tutte le regioni, precisamente 36 sportelli su tutto il territorio nazionale, dove queste persone potranno trovare tutti i materiali informativi. Abbiamo fatto dei volantini multilingue, un vademecum veramente importante, e trovare appunto assistenza dei nostri. Come si chiamano esperti. Questi sportelli? Come li si riconosce? Questi sportelli si riconoscono perché sono tutti legati comunque alle sedi che sul territorio sono già rinomate, perché fanno parte comunque, sono già attive e lavorano per il Movimento Difesa del Cittadino e Adiconsum, che sono due associazioni nazionali riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico. Poi so che ci sono anche dei corsi gratuiti organizzati in tutte le regioni, se abbiamo tempo avremo modo di parlarne. Questo progetto è da poco partito, però immagino che ormai abbiate già ricevuto delle richieste, delle domande. Ecco, quali sono i dubbi più frequenti di una colf o di una badante straniera? Quali sono le domande più frequenti che vi sottopongono? Beh, sicuramente il progetto è nato proprio da tutte queste richieste che in questi anni abbiamo raccolto anche da parte di questo target, e molto spesso ci chiedono, ci fanno domande sui diritti di cittadinanza, ma anche e soprattutto direi sugli utenze, le utenze domestiche, quindi su gas, luce, acqua, telefono, come sono sempre insomma importanti per il bilancio familiare e anche quindi per queste persone, capire come risolvere queste controversie, come contestare una bolletta, quindi come destricarsi quando si è vittime di un disservizio. Va bene, questo per quanto riguarda colfe e badanti stranieri, ma c'è un altro progetto di cui appunto abbiamo accennato, che invece si rivolge agli anziani. Questo progetto si chiama Linea d'Argento ed è organizzato, curato insomma dal Movimento Consumatori. Francesca Lulli è con noi. Insomma, un servizio per le persone dai 60 anni in su. Definire anziani sessantenni non si può fare, eh? No. infatti però insomma ci sono sicuramente le persone anziane che hanno bisogno di aiuto. In che modo voi le agevolate? Noi le agevoliamo con il progetto Linea d'Argento, che ci è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ne ha appunto riconosciuto l'utilità, informando i cittadini over 60-65 sulle agevolazioni e le riduzioni previste dagli enti locali, dalle aziende municipalizzate o dalle aziende private, aziende come Telecom, per gli anziani che hanno in alcuni casi dei limiti di età, appunto, in altri casi i limiti di età vanno ad accompagnarsi a dei limiti di reddito e appunto hanno diritto ad usufruire di sconti e agevolazioni sui servizi ritenuti essenziali come il trasporto pubblico, i rifiuti, la luce e il gas. Quindi ci sono degli incentivi, ci sono delle agevolazioni dedicate agli anziani che spesso gli anziani non conoscono. Infatti, perché noi, manca l'informazione. Sì, noi ce ne siamo resi conto con altri progetti che andavano a coinvolgere gli anziani ma su tutt'altro problematiche, questioni, però in questi ultimi anni abbiamo avuto diverse, molte occasioni di contatto, per cui con delle iniziative, delle feste, delle iniziative in cui abbiamo potuto contattarli e parlarci, e abbiamo siamo venuti a conoscenza di questa problematica. Noi da una parte abbiamo stretti rapporti con le istituzioni e con le aziende, ai tavoli di confronto per appunto andare a studiare delle soluzioni che vadano ad agevolare il cittadino consumatore. Dall'altra parte però ci siamo resi conto che il cittadino consumatore non ne ha conoscenza. Certo, ecco, e voi in che modo li informate? Perché poi questi incentivi variano anche da regione a regione, da provincia a provincia, per cui dovete essere presenti in maniera capillare. Sì, solamente in rari casi le agevolazioni sono uguali per tutto il territorio nazionale e spesso sono appunto diverse da provincia a provincia, anzi anche da comune a comune. Noi abbiamo realizzato in questi mesi un database, una banca dati con le agevolazioni appunto e le riduzioni per questi servizi, con un ricercatore che ha effettuato appunto questa banca dati andando a ricercare sui siti ma anche contattando telefonicamente. Quindi c'è un numero verde? Sì, c'è un numero verde 800 145 078, al quale i cittadini possono chiamare dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì e anche il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18 e possono dire io ho 75 anni, abito a Torino, ci sono degli abitano e gli viene appunto il servizio di cui vogliono usufruire, per il quale vorrebbero avere delle riduzioni, e l'operatore gli dà le informazioni richieste. Va bene, è difficile insomma tenere a memoria i numeri verdi, anche gli indirizzi mail che abbiamo dato. Comunque alla fine della puntata ricorderemo quali sono i siti in cui trovare tutte le informazioni, i siti dell'associazione di consumatori, e poi comunque potete riascoltare attraverso il nostro sito radio24.it. Ricordatevi invece questo numero verde perché vi serve per le telefonate in diretta. Tra poco sentiremo la vostra voce e anche quella di Roberto Violi, coordinatore del servizio Colf del CAF CISL, 800 24 00 24. Se preferite scrivere 349 238 6666. C'è il meteo, poi torniamo insieme. Bentornati a Salvadanaio da Roberta Pellegatta. Oggi stiamo parlando di Colf e badanti, del rapporto che si instaura tra loro e le famiglie italiane. Per agevolare Colf e badanti e anche gli anziani di cui spesso si occupano, sono da poco nati due nuovi progetti. Uno si chiama Badanti Informate, Famiglie Protette, l'altro Linea d'Argento. Ne abbiamo parlato con Livia Zollo del Movimento Difesa del Cittadino, con Francesca Lulli, responsabile progetti del Movimento dei Consumatori. Sono ancora con noi, per cui se volete potete intervenire, potete fare delle domande all'800 24 00 24 oppure mandare un messaggio al 349 238 6666. Con noi abbiamo anche Roberto Violi, coordinatore del servizio Colf della CAF CISL. Roberto Violi, si è parlato molto nei mesi passati, anche qui l'abbiamo fatto a Salvadanaio, delle procedure di regolarizzazione per Colf e badanti. Dai dati del Viminale emergono molti casi di rigetto di queste pratiche, circa il 10%, abbiamo accennato anche nella scheda che abbiamo sentito poco fa. Come mai e che bilancio si può fare di questa sanatoria? Beh, indubbiamente i dati sono quelli che avete presentato voi, cioè a fronte di circa 300.000 domande la percentuale di rigetto è esattamente il 10% più o meno. Le motivazioni sono sostanzialmente due, cioè le domande sono state rigettate o per dei vizi di forma, come avete correttamente presentato, o per altri motivi. Per quanto riguarda i vizi di forma, sono di due natura: una prettamente tecnica, e quindi errata compilazione della modulistica, oppure diciamo interpretazioni equivoche che alcune realtà locali hanno accolto, diciamo, in maniera appunto errata e quindi hanno fatto in modo che la domanda venisse rigettata. Queste sono posizioni che si possono sanare, nel senso che facendo comunque riferimento anche ai nostri consulenti della CISL si può provare a interagire con la pubblica amministrazione, con le questure, in questo caso le prefetture, per sanare queste posizioni. E poi va detto, sono state rigettate anche una serie di domande che sono state presentate senza che esistesse il presupposto di merito, voglio dire che non era un rapporto di lavoro effettivamente esistente, ma si trattava di un'altra cosa, anche di comportamenti illegittimi da parte di datori di lavoro fittizi che sono stati sanzionati. Va bene, sentiamo qualche domanda. Ci ha raggiunto all'824-0024 Adelio D'Alecco. Pronto? Pronto, buongiorno signora. Volevo chiederle un'informazione a lei e ai suoi collaboratori lì in studio. Meglio ai miei ospiti, sì. Sì, i suoi ospiti, mi scusi. Prego. Volevo chiederle, riguardo, dato che io ho una zia con l'Alzheimer, diciamo, questa zia percepisce sui 500 euro mensili e così via. Io per la badante spendo 1.300 euro tutto il versamento dei contributi e così. A un certo punto cosa devo rivolgermi? Perché ho sentito che c'è Linea Argento che può dare una mano o qualcosa. Volevo capire cosa posso fare. La ringrazio Adelio. Francesca Lulli, non so se vi occupate anche di questioni come questa che ci ha sottoposto il nostro ascoltatore, peraltro molto frequenti. Sì, infatti la questione dell'assistenza sanitaria per gli anziani è molto delicata e nel nostro progetto ci occupiamo delle agevolazioni che riguardano gli altri servizi, ad esempio consultando adesso rapidamente la banca dati ho potuto vedere che a Lecco gli anziani hanno diritto a delle agevolazioni, anzi a delle esenzioni per quanto riguarda i rifiuti e per quanto riguarda il trasporto locale. Purtroppo mi rendo conto che questa tipologia invece di persona di cui ci parlava l'ascoltatore deve rivolgersi ad altri. Allora io giro questa domanda a Roberto Violi. Beh, va detto intanto che ci sono delle agevolazioni fiscali che spettano a tutti i datori di lavoro che regolarizzino il rapporto di lavoro con un contratto, e sono di due tipi. In sostanza i contributi trimestrali che vengono versati all'INPS sono comunque deducibili attraverso il modello 730. E allo stesso modo anche una parte dello stipendio, quindi il costo vivo della badante, che è molto spesso è pesante per la realtà delle famiglie italiane, come indicava giustamente il nostro ascoltatore, questo costo è detraibile in parte, c'è un massimale ovviamente, a condizione che il contratto di lavoro si riferisca a una badante che assiste una persona non autosufficiente. Quindi questo vale per tutti i rapporti di lavoro. Il beneficio spetta al datore di lavoro che abbia un determinato reddito, e cioè in sostanza che non abbia un reddito troppo basso o troppo alto. Queste sono agevolazioni che sono connaturate al fatto di semplicemente regolarizzare la posizione attraverso un contratto. Volevo anche dire che fare un contratto regolare, gestire un contratto regolare è di grande importanza, perché riconosce diritti al lavoratore, gli permette che vengano rispettati i diritti ovvi dei lavoratori, ma allo stesso modo tutela anche la famiglia. Ecco, a proposito di contratto di assunzione, forse possiamo entrare nel merito rispondendo a Salvatore da Catania, che ha una domanda concreta. Salvatore, buongiorno. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie molte. Ecco, io volevo chiedere questo. Abbiamo mia suocera che ha oltre 80 anni, non è autosufficiente. Vorremmo assumere una badante rumena e metterla in regola da un punto di vista contratto. Sì. Mi chiedevo qual è il minimo retributivo per il corretto inquadramento lavorativo. Va bene, quindi lei vorrebbe delle informazioni sui costi. Sui costi, sì, perché sento che c'è un inquadramento per le persone non autosufficienti oppure per le persone. Ci sono delle differenze, Roberto Violi. Sì, ci sono delle differenze in effetti che riguardano il tipo di mansionario che la badante svolge, ma anche la natura del contratto. È chiaro che la badante che lavora a tempo pieno convivente ha un costo minimo contrattuale più alto della badante che lavora part-time. Questo vale per i conviventi. Poi c'è un costo orario per chi assume una badante che lavori ad ora in sostanza, quindi non sia convivente e svolga solamente delle ore durante la giornata presso la famiglia, ma non dorma lì, ecco, come si dice. Per quel che riguarda le badanti conviventi che lavorano a tempo pieno, c'è un costo minimo, parlo di stipendio, che si aggira intorno agli 890 euro mensili. Mentre invece per chi assume una badante ad ore e quindi si va a quantificare l'orario effettivo di impegno durante la giornata, il costo minimo orario si aggira intorno ai 6,20 euro. Va bene, chi si perde qualcosa può riascoltare, lo ricordo, la puntata in qualunque momento scaricandola dal nostro sito, che è www.radio24.it. 800 24 00 24 è il nostro numero verde. Un'ultima domanda, prima delle informazioni sul traffico, Enzo dalla provincia di Lecco. Sì, buongiorno signora. Buongiorno. Scusi se vi rubo 90 secondi. Ci mancherebbe. Io avevo due genitori anziani, giovedì è morta la mamma, giovedì scorso. Ho bussato a tutte le porte del posto dove loro abitano in Puglia, ma le risposte: possiamo mandarti l'infermiere un'ora, possiamo mandarti questo, possiamo mandarti quell'altro. Io, loro due percepivano 1.100 euro al mese di pensione tutti e due, una badante costa 1.300 euro oltre il vitto e l'alloggio per tutte e due, tutte le specie di questo mondo. Qui parlano di aiuti, ma io ho avuto porte chiuse dappertutto. Quindi suo papà è solo adesso? Papà ha 89 anni, con demenza senile, ho dovuto per forza, perché non ho nessuno. In questi tre anni ho vissuto momenti drammatici, andare in Puglia avanti e indietro. L'altro ieri, con grande dolore, ho dovuto sistemare una casa di riposo a 1.340 euro al mese. Questa è la situazione. E questa è la realtà, questa è la realtà. Questa è appunto degli aiuti dal comune. Non ho avuto niente, neanche un infermiere, la puntura, persone che hanno bisogno 24 ore al giorno. Abbiamo fatto domanda di invalidità per mia madre ad agosto per avere una piccola integrazione, ci hanno risposto l'altro ieri che vogliono rivederla perché la situazione non è chiara, purtroppo la mamma non c'è più. Ecco, dare una risposta a questo intervento sarà molto difficile, potremmo semmai commentarlo, però lo facciamo tra un attimo, dopo le informazioni sul traffico. Se volete scrivete i messaggi al 349-238-6666 oppure telefonate all'824-0024. Di nuovo insieme a Salva Danaio, Francesca Lulli, lei che è un po' al polso della situazione su quelli che sono i servizi, gli incentivi, le agevolazioni per le persone anziane in Italia. Lascio commentare lei la telefonata di poco fa. Sì, innanzitutto faccio le condoglianze all'ascoltatore, insomma, capisco il suo problema e quello di tanti altri cittadini che hanno in famiglia problemi analoghi, però mi trovo costretta a ribadire la linea di assistenza che Linea d'Argento offre, che è sui servizi quali i rifiuti o i trasporti pubblici locali, sostanzialmente in gran parte per gli anziani autosufficienti che non hanno bisogno di assistenza sanitaria delle colf e delle badanti. Questo appunto è un altro discorso. Noi abbiamo fatto questa partnership con badanti informate per rafforzare la comunicazione e affiancarci al servizio di assistenza per le badanti. Ecco, a proposito di questo, sì. Livia Zollo, abbiamo parlato poco fa di contratti, di costi, di regole, eccetera. Voi alle colf, alle badanti straniere che si rivolgono, date informazioni anche di questo tipo, quindi sul contratto, sui loro diritti? No, come associazione manteniamo la nostra esperienza e la nostra assistenza che diamo comunque a tutti gli altri cittadini, quella appunto di temi dei consumeristici, quindi diritti legati appunto alle tematiche che dicevamo prima, quindi vogliamo sicuramente fornire degli strumenti validi per migliorare le loro conoscenze e le proprie capacità di autotutela. In modo da renderle consapevoli. Sì, esatto, informandoli e renderli consapevoli dei loro diritti come cittadini e consumatori. Visto che lei avrà incontrato diverse di queste persone, le sottopongo questo messaggio, è arrivato al 349-238-6666, un ascoltatore che non si firma dice: le badanti sono molto protette, spesso abbandonano l'anziano per migliori compensi o anziani meno impegnativi. Mi scusi, puoi ripetere la domanda? Che non è una domanda, è una considerazione. Scrive un ascoltatore: le badanti sono molto protette, spesso abbandonano l'anziano per migliori compensi o anziani meno impegnativi. Le risulta che siano molto protette? Guardi, sicuramente può darsi, cioè non mi risulta questa, questa differenza, nel senso che molte persone rivolgono anche a strutture come la Caritas per cercare una badante di una colta con delle referenze, quindi diciamo che anche noi italiani siamo comunque tra virgolette tutelati, se così vogliamo dire, nel ricercare o selezionare una colf o una badante, quindi una rete consolidata credo che... Sì, comunque in genere insomma i lavoratori tendono poi a cercare di crescere anche professionalmente nel lavoro e quindi trovare posti migliori, evidentemente anche le badanti lo fanno. Roberto Violi. Sì, certamente, come dire, il ciclo di vita di un contratto colf e badanti è particolarmente breve, ma questo dipende da molte ragioni e come diceva lei adesso è anche corretto che una persona, un lavoratore cerchi di crescere professionalmente. Io credo che il messaggio consti anche di della natura del rapporto e quindi che viene percepito come segno affettivo, nel senso che la badante svolge effettivamente un ruolo essenziale all'interno di una realtà familiare particolarmente delicata, perché la badante si assume perché ci sono problemi rispetto all'anziano. E quindi in questo modo tante volte le famiglie che si sentono abbandonate non si sentono abbandonate da un semplice lavoratore, ma da un lavoratore che svolge una prestazione così semi-affettiva e quindi da qui forse... Su cui hanno posto tutta la loro fiducia. Sì, esatto, da qui quel minimo di risentimento che mi sembrava di percepire nel messaggio. Vero è però che contrattualmente le badanti in verità hanno qualche diritto in meno di altri lavoratori, perché ad esempio la malattia viene riconosciuta solamente in parte e solamente di recente con l'attivazione della cassa colf. Quindi quello che è stato detto è comprensibile, ma non corrisponde esattamente a quello che succede, se non per il fatto che capita di frequente che le badanti cambino lavoro con una certa fretta, . Va bene, 824 0024 da Bergamo arriva la telefonata di Edoardo. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho 81 anni e appunto nel merito che io non ho una badante, però poiché non sono autosufficiente del tutto, una volta alla settimana c'è una donna che viene a farmi dei mestieri. Questa donna qui, può stare da me, capita spesso che può stare da me 4, 5, 6 mesi e poi se ne va perché trova altro lavoro più redditizio o più normale. Ma volevo sapere, prima di tutto, avendo questo problema qui, io questa donna che poi non vogliono i contributi perché sono già assolti in altre faccende, in altri lavori che fanno, e allora la vogliono in nero e vogliono qualcosa in più. Io voglio sapere se incorre in qualche sanzione o che cosa. O in qualche rischio. Quindi lei dice che sono loro a non volere un'assunzione regolare da parte sua, preferiscono invece qualche soldo in più nella busta. Posso dare con 4 ore. Quattro ore alla settimana arrivano. Roberto Violi. Sì, questa è una dinamica in effetti abbastanza frequente, però vorrei ricordare che è comunque obbligo del datore di lavoro regolarizzare la posizione contrattuale, indipendentemente da quelle che sono le considerazioni della badante o della colf, e che solo attraverso la regolarizzazione si è esonerati dai rischi che indicava adesso il signore, che sono quelli in sostanza di fare lavorare una persona in nero. Questo comporta che in caso di infortunio manca completamente la posizione assicurativa dell'INAIL e quindi ogni eventuale danno è a carico della famiglia, ma ci sono anche sanzioni di ordine amministrativo per mancata regolarizzazione di lavoratore, e quindi la direzione provinciale del lavoro ha facoltà in questo caso di sanzionare la famiglia che ha le stesse prerogative di una, di un datore di lavoro ordinario. Allo stesso modo ribadisco che la regolarizzazione del contratto, della posizione lavorativa, permette al lavoratore di acquisire dei diritti evidenti e sacrosanti come la maternità, il diritto alla disoccupazione, all'assistenza sanitaria. Quindi è veramente fondamentale la regolarizzazione contrattuale anche in questi casi in cui magari è il lavoratore per primo che ha delle, chiamiamole, esitazioni. Hanno diritto anche alla pensione. Francesca via SMS ci scrive: la badante di mia mamma ha 71 anni, potrà andare in pensione? Sì, ci sono dei requisiti minimi per questo, nel senso che c'è una occorre avere compiuto 60 anni di età e avere dei versamenti continuativi per un certo numero di anni, che sono almeno 5, dipendentemente anche dalla quantità di contributi che si sono versati. A fronte di questo c'è l'acquisizione del diritto a una pensione, chiamiamola sociale. Un'ultima domanda, perché siamo in chiusura, Daniele da Parma. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho avuto alcuni mesi fa un grosso problema con mia madre. Ovviamente trovandoci di fronte a un problema così di non facile soluzione, abbiamo cercato tra delle badanti, abbiamo trovato una disponibile e l'abbiamo assunta, per così dire, ha iniziato a lavorare con noi, però è irregolare, quindi non ha il permesso di soggiorno e non è assunta in modo regolare. Moldava. Chiedevo, ci sono possibilità abbastanza veloci per poterla regolarizzare? Dottor Violi. Attualmente no, nel senso che ogni anno sono previste o una regolarizzazione o una finestra che si chiama decreto flussi, che stabilisce i numeri suddivisi per nazionalità delle persone che è possibile regolarizzare. C'è un disegno di legge che quantifica il decreto flussi 2010, fermo alle Camere, però attualmente non c'è nessun decreto che dia la possibilità di regolarizzare chi di fatto è clandestino, come la signora che indicava l'ascoltatore adesso, perché un cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno è clandestino, quindi ospitarlo in casa per di più con una posizione lavorativa che non si può regolarizzare neanche volendo comporta una serie di sanzioni, in questo caso anche penali. Io mi scuso con Anna da Torino, non abbiamo il tempo per rispondere al suo messaggio, siamo davvero in chiusura, per cui ringrazio i nostri ospiti di oggi, Francesca Lulli, Livia Zollo, Roberto Violi, per essere stati con noi e aver risposto ai nostri ascoltatori. Abbiamo parlato di due progetti, Badanti Informate, Famiglie Protette, per Colf e Badanti. Tutte le informazioni ai siti www.mdc.it oppure www.movimentoconsumatori.it. Anzi, in questo caso movimentoconsumatori.it è invece per il progetto sugli anziani, Linea d'Argento. Davvero tutto, adesso lascio la linea a GR24, Salva Danaio torna domani come sempre alle 12:15, una buona giornata da Roberta Pellegatta.